Purgatorio di Ariel Dorfman, che sarà in scena al Piccolo Eliseo qui a Roma dal 27 settembre all'8 ottobre, e ne parliamo con l'attore in scena Danilo Nigrelli. Danilo, ben ritrovato su queste frequenze. Grazie, ciao, buongiorno a tutti, ciao. Allora, insieme a te Laura Marinoni, ci racconti un po' di questo progetto? Sì, allora, questo è un testo che praticamente è la prima volta che viene rappresentato in Italia. È Carmelo Rifici, che è il regista, ha preso, insomma, se n'è innamorato, ha comprato i diritti e abbiamo cominciato a farlo l'anno scorso, prodotto dall'AC, dal Teatro di Lugano, e da Emilia Romagna Teatro. Ariel Dorfman è un autore sudamericano, forse qualcuno avrà visto, spero in molti, La morte e la fanciulla, il film di qualche anno fa con Sigourney Weaver e Ben Kingsley. Lui è appunto, essendo sudamericano, è rimasto sempre molto colpito dalle tragedie sia del Cile che dell'Argentina, per cui ha una fissa questa, appunto, di essere delle persone che sono costrette nelle carceri e le torture. Questo è uno dei suoi temi principali. In questo caso mette in questo luogo astratto, che è questo purgatorio, un uomo e una donna, e sono tre quadri. Nel primo quadro lui fa, diciamo, lo psicanalista di lei, nel secondo lei fa lo psicanalista a lui, e nel terzo, nel finale, nell'epilogo, si capisce che chi sono questi due e che cosa fanno. Ma che è una cosa che si può dire subito: praticamente sono due persone terribili che hanno commesso delle cose terribili nella loro vita. In qualche modo sono Medea e Giasone, non in qualche modo, sono loro due. Sì. Medea, che ha ucciso i figli di Giasone, i suoi figli e i figli di Giasone, perché è stata lasciata da lui, che l'ha fregata, si è preso il vello d'oro, se l'è portata nella sua terra e l'ha abbandonata per sposarsi con un'altra. Ed entrambi, per poter uscire da lì, hanno dato loro dei nuovi corpi, per poter uscire da questa situazione di mezzo devono perdonare l'altro. Questo è l'intento di Dorfman, in qualche modo, e ovviamente si scaturiscono dei rapporti particolari fra questi due, ovviamente. Senti, tra il testo e la messa in scena, quali sono state gli elementi su cui avete puntato, quanta fedeltà c'è, quale interpretazione avete dato? Guarda, la fedeltà è quasi assoluta, sono stati, va bene, dei piccoli tagli, degli aggiustamenti, come, insomma, sì, si fa, sì, quasi sempre in ogni spettacolo. Il taglio che ha dato Carmelo vuole essere molto... sembra realistico, ovviamente, ma non lo è. C'è una ricerca di verità nel rapporto fra i due, ovviamente, fra i due attori, che anche il rapporto fra i due personaggi, e anche il rapporto fra cosa questi due personaggi rappresentano. E siccome sono vari strati sovrapposti, queste tre cose, il lavoro che ha voluto fare Rifici era, appunto, è di cercare una verità altra rispetto a questo, in modo che intanto la storia venisse fuori e fosse chiara, e anche che rendesse per gli spettatori questa sensazione di claustrofobica, che tu non puoi uscire dai tuoi errori, in qualche sì, modo, finché sì, non li ammetti, e finché non ammetti di aver sbagliato. Ed è una situazione, cioè, appunto, che è rovesciata rispetto a una situazione delle torture, no? Però è, appunto, questo il gioco di Dorfman, ed è molto intrigante, devo dire. Poi è dentro una scenografia, in qualche modo, che ricorda gli anni 70, cioè dei ricordi di questo genere, e a tratti sembra un film di Almodovar, per capirsi, molto colorato, molto forte, anche molto ironico, si ride anche, per fortuna, perché le tragedie hanno anche un loro lato comico e ironico alla fine. Senti, mi dicevi dello scorso anno, che riscontri ha avuto? Devo dire, è ovviamente uno spettacolo non pop nel vero senso della parola, nel senso, cioè, non è che da grandi masse. Lo abbiamo fatto sia a Modena, abbiamo deputato lì, a Bologna, in grandi teatri, insomma, quel pubblico è venuto abbastanza, insomma, era abbastanza numeroso e devo dire colpisce molto. Non è uno spettacolo classico italiano, su questo non ci sono dubbi, intanto per il tipo di testo e anche per la messa in scena. Devo dire che Carmelo Rifici ha un respiro, insomma, lui è un allievo di Ronconi, adesso è direttore della scuola del Piccolo di Milano, e comunque è svizzero di origine, ha sempre visto spettacoli all'estero, si è sempre molto interessato di cosa succede fuori dall'Italia, e devo dire questo spettacolo ha un respiro che non è esattamente italiano, lo si vede, lo si comprende, secondo me. Senti, a proposito di respiro, nel corso delle varie repliche si è modificato in qualche modo? Beh, sai, si modifica sempre, come si dice, è fisiologico, certo. un po' insomma, prima ce l'hai un po' lontano, poi comincia a entrare nelle tue corde, però abbiamo una rete, un tracciato da percorrere che è molto preciso, veramente molto preciso, in cui c'è richiesta molta verità ma anche molta precisione contemporaneamente, per cui cuore e testa, tecnica e entrare nella storia, per cui difficilmente perché se sgariamo veramente basta poco e non si comprende che cosa succede e i rapporti si spostano se usciamo dalla linea tracciata dal regista e dall'autore in particolare, per cui siamo sempre molto precisi, ma ovviamente ci dobbiamo lasciare andare, sennò non succede niente. Senti Danilo, questo primo appuntamento al Piccolo Eliseo, poi la tua stagione ti vedrà da altre parti qui a Roma? A Roma no, sarò in giro con uno spettacolo che ho fatto l'anno scorso a Locandiera B&B con la regia di Andò e Laura Moranti, che l'anno scorso ho fatto qui all'Ambra Juvenile, e giriamo l'Italia fino a marzo, sono in giro con quello e poi vediamo cosa succederà, ancora di preciso non lo so, il mestiere sta cambiando, una volta sapevamo all'inizio dell'anno cosa avremmo fatto, adesso purtroppo non è più così, anche per chi insomma c'ha un po' di anni come me, per cui immagino che per i giovani sia ancora più difficile, insomma questa è la cosa di questi anni più importanti di questo mestiere, che sta cambiando ed è cambiato in peggio, ovviamente. Senti Danilo, per chi volesse saperne di più appunto sui tuoi lavori e sulla tua attività, ci sono dei riferimenti internet? Guarda, c'è, sì, con il mio nome si trova sia il curriculum, ma insomma su Facebook ci sono, insomma sui social, queste cose, poi ogni tanto faccio dei seminari qui a Roma con il Teatro della Scaletta e sono sempre abbastanza pubblicizzati, per cui insomma sì, si trovano le cose su di me e su quello che farò. Bene, allora intanto ci si vede al Piccolo Eliseo, un abbraccio. Va bene, grazie. E a presto Danilo. Grazie a te, ciao. Ciao.